La tua presenza il popolo di Sparta è accento a festeggiar. Germe d'eroi, nato al diadema, acceso di bella gloria e del vigor degli anni, negli atletici giuochi, i travagli di morte, pago sarai di ravvisar. Di questa eletta gioventù, quando nell'agone la forza sia, l'arte e l'ardire, asseso al fianco mio, nel mio paterno sogno, giudice e spettator, meco ti voglio. Il più vago, oh regina, spettacolo al mio sguardo, sto solo.